Guardò anche oltre la sua vita, nei nostri giorni futuri. Guardò come si sarebbe comportata la gente nei confronti dei suoi libri e della sua memoria. Guardò oltre la morte, come quelli che amano la vita e non sanno staccarsene. E pur pensando alla morte, vanno immaginando non la morte, ma la vita. Lui tuttavia non amava la vita, e quel suo guardare oltre la sua propria morte non era amore per la vita, ma un pronto calcolo di circostanze, perché nulla, nemmeno dopo morto, potesse coglierlo di sorpresa. Balbo andò a vivere a Roma e lasciò la casa editrice. Poi annaspò per anni fra progetti assurdi ed errori. Infine ebbe un vero lavoro. Imparò a lavorare come l'altra gente. Tuttavia si scordava sempre l'ora del pranzo e di andarsene quando si vuotava l'ufficio, come gli accadeva un tempo alla casa editrice. Perciò lavorava di più dell'altra gente, ma senza capirlo e accorgendosi con stupore d'essere esausto la sera. Ora i Balbo avevano 3 bambini e tentarono di diventare un vero padre e una vera madre, cosa di cui entrambi erano incapaci e che gli pesava. Solevano accusarsi reciprocamente ogni giorno di questa incapacità. Nessuno dei due sosteneva di saper educare i bambini, ma ciascuno dei due chiedeva all'altro di essere quel che l'altro non era. Balbo cercava di insegnare ai suoi figli una cosa che sapeva bene, cioè la geografia, perché di tutte le altre materie che si studiano a scuola non ricordava nulla, pur essendo stato, a quanto diceva, un ottimo scolaro. Non toccava invece mai con loro argomenti storici, un poco perché non sapeva la storia e un poco perché aveva paura che si insinuassero nei fatti storici giudizi e opinioni politiche. E lui non voleva offrire ai suoi figli giudizi già formulati. Pensava dovessero farsi le loro opinioni e i loro giudizi da sé. E questo appariva strano in uno come lui, che era stato per tanto tempo con i suoi amici aggressivo e invadente nel dare giudizi e opinioni, e aggressivo e invadente anche nel riceverne, cioè nel far sue le opinioni degli altri, nel fonderle e rimescolarle e nell'imprimervi il marchio del suo pensiero. Con i figli si mostrava quanto mai cauto nel somministrare il cibo del suo pensiero. Lola e suo marito, dunque, non parlavano mai di politica in presenza dei loro bambini. Lei perché aveva in odio il settarismo, lui perché pensava bisognasse astenersi dal toccare con i bambini argomenti complessi. E siccome entrambi temevano di confondergli le idee e di ispirargli diffidenza e incertezza nei confronti dell'autorità costituita, in presenza dei figli non parlavano della storia della galera. Quanto a Lola, usava foggiarsi un ideale di figli del tutto diversi da quelli che aveva e confrontare ogni momento quell'ideale ai suoi propri figli, pigri, disordinati e distratti. Perciò non faceva che rimbrottarli nel suo modo ruvido e caotico, che non impauriva nessuno, ma soltanto metteva in casa una sensazione confusa di disagio, di rumore e di caos. Contemporaneamente, lei si foggiava anche un ideale di marito e di padre del tutto diverso da quello che Balbo era e mai poteva proporsi di essere, e lanciava di tanto in tanto all'indirizzo di suo marito e dei suoi figli un lungo strido gutturale ed esasperato, uguale a quello col quale un tempo si lamentava della gente che s'aggirava per casa. Non c'era nella loro casa di Roma gente che andava e veniva come in corso Re Umberto a Torino. Anzi, adesso avevano pochi amici e contenuti in un giro di ore ragionevoli, e si trattava di persone a cui Balbo a volte non aveva nulla di speciale da dire, con le quali a tratti taceva o discorreva scherzando. S'era placato in lui l'antico e prepotente parlare. Indirizzava ora la propria intelligenza su fini precisi, la guidava verso persone precise e in momenti determinati del giorno, entrando poi nel silenzio, come si chiude una serranda quando vien sera. Ancora, a volte, quando erano in viaggio da soli o quando avevano tutti i ragazzi in vacanza, Balbo e sua moglie si godevano le giornate e le sere nel modo usato. Si riposavano liberi, andavano a zonzo per le strade e lui le faceva comprare i vestiti e le scarpe che lo divertivano, o se ne andavano a ballare ai night club. Thank you. Lola, infine, si prese anche lei un lavoro. Non lo scelse, ma piuttosto le cadde tra i piedi un momento che lei non ci pensava. Non era forse il lavoro che avrebbe scelto se avesse potuto scegliere, e non assomigliava in nulla alla sua galera, cioè al momento che stimava migliore e più alto della sua vita. Tuttavia quel lavoro riusciva a farlo bene e a portarvi un poco della sua intelligenza. Per quanto vi portasse insieme anche il suo disordine, la sua impazienza, la sua irrequietezza e la sua voglia di litigare. La sua voglia di litigare la sfogava soprattutto davanti agli sportelli degli uffici postali, dove andava a volte a spedire per quel suo lavoro opuscoli e pacchi. Lavorava con certi magistrati, svolgeva il lavoro di solito fra le mura di casa, e intanto urlava ordini alla donna di servizio e ai bambini, telefonava alla suocera e alle sue amiche e si misurava dei vestiti. Questo lavoro aggiunse caos al caos. Le toccava a volte fare dei pacchi e allora decideva di colpo che dovevano farglieli i suoi figli, essendosi di colpo foggiata l'immagine di figli destri e abili nel fare i pacchi. Perciò urlava «Luca!» e Luca appariva, grosso, tutto macchiato d'inchiostro, perduto nelle nebbie dell'indolenza, e lento e indifferente come un principe, e lei gli ordinava di fargli subito una ventina di pacchi. Luca, in vita sua, non aveva mai fatto un pacco. Lei gli metteva in mano un blocco di carta e un rotolo di spago. Luca errava per la casa con quello spago, assorto, immemore e indolente, muovendosi adagio e senza nessuno scopo, finché a un tratto lei lo copriva di urli e gli strappava di mano lo spago. E lui allora la guardava con i suoi occhi verdi, fieri, immobili, dalle distanze del suo regale silenzio. Lola andava anche d'estate a fare i bagni a Ostia. Là andava sola, perché suo marito non amava molto il mare e i suoi figli erano in genere, in quell'epoca, via da Roma nei loro campeggi di Boy Scouts. Andava là con gente occasionale, usata semplicemente per quello scopo, farsi venire a prendere in macchina e ricondurre a casa. Teneva con queste persone occasionali conversazioni che non l'annoiavano né la divertivano, essendovi nel suo temperamento un lato mondano, estraneo al divertimento e alla noia, legato di solito a un interesse immediato, essere accompagnata in automobile e ottenere indirizzi di tappezzieri. Usava complicare la sua vita pratica cercando tappezzieri lontani, falegnami che costavano poco e non avevano però il telefono, negozi di stoffe in capo al mondo dove poteva avere, grazie a quelle conoscenze occasionali, piccoli sconti. A Ostia, tuttavia, in mare, se la godeva da sola, nuotando lontano, asciugandosi al sole e abbronzandosi in modo inverosimile, benché i medici le avessero consigliato di non stare troppo al sole per quella malattia di cui aveva un tempo sofferto e di cui aveva sempre gran paura, ma non abbastanza da evitare il mare, il sole e la sabbia. Rientrava a pranzo alle 4 e lanciava per la casa, rivolto al marito, il suo strido gutturale e tenero, sentendosi pacificata da quel mattino di libertà e di vacanza e amando l'estate, il caldo e l'avere i figli al campeggio, e girare per casa in costume da bagno e con i piedi scalzi. Thank you.